potivaj pa jan che mon ti wèl ou mon che res rat hipokrizi se va kadam mon jou se resi li choufe bèsye nou di mon file pou razwa kwa mè kapane wè tare sa explik an step mwa ba proti si la fam de kon Mama, you could see those a era You ta fe nou krepe Monte pot pepe djel manou Mon vie m'en veille la vie fait peine Deja que va a vivir con nosotros.